qua meditando, non ci credo. No, c'è. Andiamo a farci due chiacchiere con questo Antonello. No, farò. E c'è una cosa, ma c'è voglia di mandare a papà Elio? Non si mette di più, c'è voglia Antonello. Sei proprio rompiscatole, eh? Non mi fai la rabbia, io sono molto terribile. Tu non mi conosci bene. Per carità di Dio, riprendi già. Questo non è la rete. Tu hai la tua di tutti gli spazzali. Ma che cosa non lo c'è? No, non so. Segnale è quello lì, quello di Antonello 9:30. Ma la radio, non lo so, è tutta, si mangia tutte le parole, non capisce niente. No, la testa. Tutti quanti così non vi arrabbi, va bene? Sto scherzando io, Ti sentiamo male, devi essere no! Ma se tu parli sopra di noi come possiamo risponderti? Mi fai capire? Io se ne devo andare! Ma Antonello c'è lì, ma scusa un attimo, Sono a cagare! Poi già andano lì due dosi, mi sembra che le dici perché cioè lui è lì e lascia parlare una persona così, a vanvera, offendendo la gente, che odio lui. È una bambina, non è che non ce l'ha perché se te ne vale. C'è 13 anni, ma lui c'è 13 anni. È quella che intenta l'altro giorno perché la riconoscono la voce. Vabbè, ma se c'è lui lì, non ho capito, no, è che tu fa corrida luce a ieri, ci vuole anche un pochino di garbo, non ho capito, sacco. Zitta, sono senza parole, e per giusto sono anche in mezzo a una scheda. Ti oh Claudio, sono Simona, dai lascia perdere. No Simona, ma figurati, è che è entrata così e noi non sappiamo cosa dire, cosa diciamo. No, hai ragione, comunque una bambina di 13 anni, dai lascia perdere, voleva parlare così, è una marocchina. Ehi Simona, non c'è problema, però sai, cosa le dici? No, non le posso dire niente. Infatti ma Antonello è lì e non mi risponde, mi parla sopra. Sì, quello ho capito anch'io, ma scusami, dai, ti do scusi io, però si voleva divertire due secondi con voi. Ho capito Simona, non ci sono problemi, ma sapendo che voi siete lì, noi non sappiamo cosa dirle, perché non si fa capire. Questo ho capito anch'io, però scusami dalla parte mia, dai, era un sbaglio mio, dai. No, non ti preoccupare, Simone, non ci sono problemi. Come Pomponio, da quando che sono incinta, quello non capisce più un tubo. Oh, e allora ci mette lì a giocare lui, no? No, fa schiacciare gli altri, capito? Da quando sono 4 mesi incinta, questo tutto fuori di testa. Ecco, il bastone prendo, almeno ritorna un po' la memoria. Claudio, scusa, mi stavo scherzando, volevo divertirmi un po'. Scusa, mia nonna, io non dico mai queste parole. Sì, ti ho capito, non ci sono problemi, ma io non ti capisco cosa volevi dirmi. Avanti, chi è? Bruciamo, ghiaccio al lato, bisogna ci organizziamo, già organizziamo una spedizione di quelle senza microfoni. Già ci organizziamo, ma è per piacere, ci organizziamo qualche lunedì che è libero Gianni, facciamo un salto e così proviamo il vino, i bicchieri, le posate, le forchette. Io sono lì sulle fine. Anche tu, mamma mia. Ciao, ragazzi, ciao Salvatore. Beh, cos'è? Dove ci hai fatto? Ma non sto confondendo, però parlo la mano. Ventricolare? No. Allora, a casa. Ah, arriva molto forte comunque, dove devo parlare della macchina? Beh, c'è la parte lì vicino a Ustole. Cosa arriva forte? È proprio lì vicino. Ah, ma io la trasferta da Ustoli, già, a me arrivava a 9-6, dove arrivavano per. Magari in Arabia, lì si per. Vabbè, voi mi state arrivando sì e qualcosa adesso. Sì, così lo possiamo fare vedere anche noi, sabato non c'è problema, non è quello il problema, io per mettere la potenza e il segnale varia. Tu immagini che quando io ero lì a Carnavati, molto molto più in alto perché abitavo, e c'ho ancora a casa lì, il prossimo anno, adesso devo mettere i muratori, quindi non si trova alcune cose, il prossimo anno deciderò. Ma la casa c'è un bel Carbonati dove c'è ancora l'antenna qui a Milano, non so se l'hai vista, al grattacielo. A Utieri fa accendere i lampioni della piazza. Basta, ma tu già poi stai arrivando a 9, è Gianni che ne è arrivato i 6. E Gianni è più indietro di me, anche Gianni c'ha una buona posizione, ha dei punti un po' più veloci e rimane un po' più indietro di me. Che sono proprio lavorate per te, ma immaginati a Carbonate, lo vedo io, vedo la gente passeggiare col binocolo dentro il paese tuo. Comunque deve fare anche la prestazione, io sto facendo con 5 macchine, cosa ne hanno in più di 5? Vabbè, io ne ho 20, 20 modulati, ne ho 5, quindi, ma tre segnali sono tanti, eh. Tra 2 e 5 sono tanti tre segnali, però io rimango più aperto di tetto su, cioè, lo vedo da sul tetto Usini, c'è questo vasto per Alghero, Usini, da una buona zona questa, una buona zona, ma stiamo parlando di zone alte come dove Roberto, le zone lì non si scherza, cioè Ossitici, Usini, fanno scala pieno lì, ma con 5 watt fanno scala pieno, io lo sono davanti lì proprio, partito sabato. E quindi la prossima volta che ci sentiremo sicuramente da là. Io spero il prossimo anno di decidere cosa fare. Adesso vediamo un po'. Vediamo un pochino. Ho fatto un investimento qua, adesso non è una zona, è una zona che mi piace per carità, però non sono a mio agio, mi trovavo meglio su. Palazzo è molto più bella come zona, più periferica diciamo, è anche molto più tranquilla. Tanto qua c'è un traffico allucinato, ogni mattina per uscire al garage, poi ci sono i vigili, non ti fanno attraversare. E quindi sono costretto a girare verso viale Croco Torres, quindi a destra, a mettermi viale Sicilia, a fare tutto il giro, è un casino. Molto traffico, molto molto trafficata questa zona, un bel bel. Caffa, la live, invece sei subito fuori, sei fuori, ma allo stesso tempo stai buttando la città, perché vai dove vuoi, da lì hai la via dove vuoi, dalla periferia via Milano vai dove vuoi. E io per andare al lavoro lì faccio scala di gioca e sono già fuori. Per entrare entro dalla circonvallazione sono già dentro a casa. Qua per uscire devo fare già il porto cose, cioè per entrare la stessa cosa e allora di punta c'è un casino di Gesù Cristo veramente. Però la casa è molto bella. È nuova, avrete attrezzata da nuovo, quindi non posso buttare via queste cose. Adesso vediamo. Tra l'altro lì ne ho due, perché ho la mia, cioè l'ultimo piano della torre, e poi c'ho dell'altra torre a fianco, quella dei miei soci, che è già chiusa, figurati, perché loro sono alla casa di riposo. Quindi è già chiusa, adesso vedrà mia moglie, lo fratello già fa, il prossimo anno si deciderà, per il momento rimaniamo così sabato. Ah, ma comunque una buona posizione, sicuramente anche un buon investimento, dai, no? Mi sono più per gli immobili, per le frustrazioni, per acquisti, non so, ma è buttati nel settimane. per quello non posso andare. È stata un'occasione e via. Sono stato investito, oramai non è che può più, però magari più avanti ci può anche vedere di recuperare, di fare. Bene, bene, bene, bene. Vai Gianni. Allora, quando lo facciamo il consuntino? Bisogna buscare, nemmeno. Già, pesce lo facciamo. Quando? A pesce. E tanto pescatore. Prima non ci sta andando adesso. Aspetta. Se lo facciamo a carne, se lo facciamo a pesce. A me avevano promesso 20 kg di pesce, chissà quando ve li porteranno. Salvatore. scritto già, e voi invece nulla. Saluti, auguri e buon. No, noi fino quando c'era il diretto che facevamo io la cena a Natale. Prima di Natale facevamo la cena, ci riunivamo tutti. Lo facevo nel ristorante, una volta l'ho fatto a Divisione, c'è un'altra volta a Cantone, c'è un'altra volta a Plottavola, a Cosa, non è solo che c'è a Plottavola, che è la fitta, dove c'è l'industria nostra. Insomma, una volta siamo stati a Cosa, al Mandingo, insomma, l'abbiamo fatto in Italia, sono stato domani al direttore che se n'è andato. Non si sta facendo un cavolo, l'anno scorso abbiamo cominciato a non far nulla, ci danno il pavettone sfumante e via. No, da noi abbiamo questa cosa così, lo facciamo ogni anno, e niente. Così, ma giusto per stare un po' in compagnia, per vedere, insomma, riunirsi un po', se ci sono problemi, cioè, così, noi mangiamo, piacere, discutiamo, e via. Non già un po' di anni che lo facciamo, anche l'anno scorso abbiamo fatto, l'anno scorso però alla Roccia delle Fatte, alla Rosichiera. Non me la metto, comunque lì vicino sempre a Caposara, ma qua l'abbiamo fatto a poco, poi siamo soltati verso l'agriturismo che c'è lì a Montelluso, un anno, vicino a Nunzi, poi qualche altra volta, insomma, sempre in zona, diciamo, là, in Valle d'Ore, Santa Maria Turino, per quelle zone lì, perché loro sono tutti lì dal posto, di Sassari siamo pochi, diciamo, siamo 4-5. E quindi loro prenotano sempre nelle zone che conoscono, là, di Caposara. E alla presto l'avreste fatto forse? Bravo, l'avvento. Perché ti tocca più o meno riconosci. Comunque, Palermo, non sono andato quest'anno, non sono andato da tanto di localizzare. Eravamo, vabbè. Eravamo per quello 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, in 12 eravamo, 350 euro. Non c'è una carina, a letto. Papà, quella che dormiva, c'era un marco. Ciao, buonanotte. Ciao. commissione anticatto si volta da Franco. Ciao Fra, ciao, buonanotte, ci aggiorniamo domani. Comunque io sono da Franco domani mattina, dobbiamo fare quel lavoro. E niente, se fa vedere siamo lì. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao Fra, buonanotte, sì, sicuramente ci sentiamo perché io posso arrivare un attimo in ufficio domani mattina. Ciao, saluto anche a te, ben sentito. Va bene, dai, ci aggiorniamo domani. Ciao già, buonanotte, corretti per me anche, perché vado a curicarmi. E ciao a tutti, ci cuore a tutti. E se vuole, un ascolto compresi. Ciao. Ciao, ciao. Allora, ciao Claudio. Ciao Giardi. Ciao. L'ho sentito all'ultimo, guarda. Quando sono entrato. Ma guarda, chiedo scusa. Poi possiamo là. Dice, chiedi scusa, dice, fa quello che ho detto. Io lo riconosco la voce grande, non lo segnale, questo altro. Come se non sono conosciuto. Non c'ero io. Poi ho fatto entrare Simona e ho detto lì. Gracias. adesso. come sei. È una vita, sì, oppure non la sto raccontando. Per sicurare. Poi allora se va bene, ma sei là e hai la forza. La forza non bene. Se sei la vita ce va bene. Ok, poi finisce brutto, poi come anche la droga. E se lo dice le mani. La so così. Penso la famiglia, sono i civili, la carità. Vedono non bene. Non la dovete mi fidiamo. E poi io c'è un limite. Bevo per dire un bicchiere, è così. Non bevo per sbronzare. Ho 20 anni. Non ci credo. No, è una verità, 15 anni. Lei ha 13. Appena nato, mi sento male. Per me hai 13 anni, però. Vabbè, riprendi. Ok. Lascia che mi sono andato a mettere il cane, dopo ce la porro, gli trovo la busta. Via da te, io devo lavorare. Invece quello che mi sei fatto male l'avrei fatto oggi, domani e dopo domani, invece, e poi da lunedì sono in ferie. E una vita, non ti devi lasciare. Deve fare purtroppo mi spetta non me lo fate. Ok dai, ci sentiamo, facciamo adesso, c'è il mio amico, volevo averlo detto. Buonanotte a tutti.